Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il miccio di poi il loco, senza contravvenzione, senza menzione, nulla. Perché è bagnato nell'aceto, guarda, ti posso assicurare che è qualcosa di esemplare. Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Alle 9:08 minuti ripartiamo da qui, dal miccio di Boy Loco che il nostro Giuseppe da Reggio Calabria suggerisce per tutti coloro che lo infastidiscono. Passate di miccio di Boy. Va bene, siamo con voi cari ascoltatori, siamo qui, c'è solo da citare Carmelo Lauricella in regia perché sennò quello non mi manda i file, mi manda le canzoni tutte sbagliate, mi mette giù gli ospiti apposta, è una mafia, una piccola mafia interna qui se non si prende l'applauso. E tutti gli altri lo sapete, siamo qui insieme con voi. Forse oggi arriva anche Manera, ma cosa dobbiamo dire di più? Vai, vai Carmelo, vai. It will not be easy. It will not be easy. Rock 2. È un po' come ci sentiamo sulle spine ultimamente. Ci sono tante considerazioni che vorrei fare sulla questione, beh, sulla scuola, ma cosa volete dire? Vi dico solo questo, sulla scuola adesso in Lombardia allora hanno deciso al liceo didattica a distanza obbligatoria praticamente da lunedì. Ale, Ale, generazioni di capre, coltiviamole. Stupendo, un ascoltatore ieri mi ha scritto, non so se su Twitter, lei è ideologico sulla scuola. Che vuol dire? Ho questa ideologia bizzarra di pensare di dover educare al massimo i ragazzi. Sono ideologico sulla scuola. E grazie per il complimento, caro ascoltatore. Sì, penso e continuo a pensare che prima di chiudere le scuole, perché la didattica online è una chiusura, dai, smettetela. Prima di chiudere le scuole devi chiudere tutto, tutto, anche le radio, piuttosto, anche le radio, guarda, anche questa radio piuttosto. Sulle mani per gli studenti! Aeroporti, stazioni, ristoranti, piscine, palestre, pizzerie, saune, tutto, tutto. Quando hai chiuso tutto e se sussiste ancora un problema, pensi di chiudere la scuola. Lavoro e scuola, scuola e lavoro, le uniche cose da preservare. Ovviamente uno mi dirà, ma il ristorante è lavoro, certo, sì, ma dovendo scegliere, come dire, la scuola arriva alla fine, qui è arrivata in cima, che bizzarria, che cosa strana. Signori, vi ricordo che da 51 giorni, 18 pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti a Bengasi e non si capisce bene perché. 51 giorni senza sapere nulla dei propri cari. Torna con noi Rosaria Giacalone, moglie del direttore di macchina del peschereccio Medinea. Rosaria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Le rubiamo due minuti perché io tengo questa conta quotidiana. Ieri il Papa, dopo avervi citati, vi ha ricevuti a distanza, ovviamente. Esatto. Per noi è stato bellissimo, un gesto molto bello. Un gesto bello. Sì, emozionante anche. Emozionante perché ci ha salutati anche da lontano. Ci ha salutati. E che cosa vi ha dato parole, immagino, per tenere alta la speranza? Ecco. Sì, sì, ci ha fatto un gesto, un ok con il dito di non perdere mai la speranza, pregare per la Madonna che tutto si risolverà. Si risolverà. Sì. Dal punto di vista delle invece notizie vere non si sa niente. No, ancora noi non sappiamo niente. Cioè, questo... Gli armatori sono a contatto con la Farnesina, però niente di nuovo. Anche ancora di questo fantomatico processo che si sarebbe dovuto aprire per violazione delle acque Ancora? Di pesca, niente si sa. No, niente, niente. Sono i giornalisti che lo dicono, ma noi di effettivo non sappiamo niente. Sì, perché... c'è da dire, l'abbiamo sentito nel giornale radio, è una notizia che magari può sembrare secondaria, ma non lo è. Al-Sarraj, no, che è il premier libico di Tripoli, però di Tripoli, non quello di Bengasi, sarà a Roma oggi. Perché tra l'altro è dimissionario, c'è un cambio di governo, sono due Libie diverse, però chissà. Niente, noi siamo sempre a Montecitorio e non sappiamo niente. Ancora non c'è niente di nuovo, nessuna notizia, noi aspettiamo con ansia che ci sia una telefonata e ce ne andiamo tutti a casa perché siamo stanchi, abbiamo pure famiglia a casa, bambini. Eh sì, perché ricordiamolo, voi siete letteralmente, devo dire questa parola, accampati in tende provvisorie, sì, da quasi un mese. 32 giorni. A Montecitorio, davanti a Montecitorio. 32, sì, e i nostri marittimi, di non dimenticare. Sempre. Sì, per dire ricordatevi di noi. Ricordatevi di questi marittimi che sono sempre in Libia, sequestrati da 52 giorni. Io signora la ringrazio, tenete alto il morale anche se non è facile, io per quello che posso e quello che possiamo noi, io inizierò sempre la trasmissione qui uno nessuno 100.000 ricordando questa conta, ecco, io ne ho contati 51 perché dal primo settembre insomma 51, 52, ma comunque sono troppi giorni. E ringrazio Rosaria Giacalone, moglie, il direttore di macchina del peschereccio Medinea, ricordiamo che sono 8 italiani, 6 tunisini, 2 senegalesi e 2 indonesiani. Credo di aver detto giusto. Allora signori, sono le 9:15 in punto, ricordate la vicenda di Willy a Colleferro, ucciso a Colleferro per futili motivi, la rissa, quei pugni, quei calci, è passato poco più di un mese, sembra un mondo fa. E tanti discorsi, trasmissioni, giustamente a dire questa cieca violenza, questa gratuita violenza, questi futili motivi che portano le persone a scattare, a prendersi magari a prendersela contro una persona in branco, in gruppo. Ebbene, è successo ancora. Certo, in questo caso non c'è una vittima, nel senso che non c'è un morto, ma c'è un ragazzo di 18 anni, si chiama Giuseppe Pio D'Astolfo, a Lanciano, in coma. Pare che stia un po' meglio, ma comunque rischia la vita o ha rischiato la vita per un'aggressione di un gruppo di 5 persone, alcuni maggiorenni, alcuni minorenni. Pensate che secondo la ricostruzione a dare il pugno fatale sarebbe stato un tredicenne. Allora io saluto e ringrazio, rubo pochi minuti al presidente del Tribunale dei Minori dell'Aquila, Cecilia Angrisano. Dottoressa Angrisano, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a lei. Allora, intanto io carcere reminiscenze insomma di diritto, ma esiste l'età imputabile a 14 anni ancora, no? Sì, assolutamente sì, l'ordinamento, benché ci siano stati dei momenti in cui, specialmente, non so se ricordate il periodo degli omicidi di Camorra, si usavano i cosiddetti moschilli, sì, cioè quei ragazzini che non, proprio perché non imputabili venivano mandati come esecutori, che è terribile, ma è anche terribile pensando alla manipolazione che veniva fatta di minori veramente spesso in tenera età, 10-11 anni, in ora del battesimo del fuoco, in un momento nel quale è particolarmente fragile lo sviluppo della personalità di un minorenne, in certi contesti è più soggetto all'esistenza di queste regole antisociali, ma comunque appartenenti a un contesto. E quindi, esatto, senza entrare, per carità, non è che lei ci debba svelare cose che, per le quali è tenuto un segreto istruttorio, ma esatto. Cioè, un tredicenne, se fosse lui la persona che ha scagliato questo pugno, in linea teorica, che cosa rischia e cosa si può fare? Allora, mentre non c'è l'applicabilità di una sanzione penale, perché siamo sotto la soglia dell'imputabilità, ci sono due vie. Una, che è quella che normalmente si apre nei tribunali per minorenni, io ci tengo a dire perché quella preposizione ci dice che la finalità è quella possibilmente del recupero. Sì. E quindi che cosa succede? Si apre un procedimento civile nell'ambito del quale il tribunale, considerando la situazione di grave rischio di devianza, può attuare provvedimenti che sono simili poi a quelli previsti penalmente per i minorenni, dove il carcere è considerata la ratio estrema. E quindi per esempio il collocamento in comunità educative, l'avvio di un percorso di risocializzazione, la valutazione sotto il profilo psichico, psicologico, con del contesto di vita del ragazzo. Pensate all'esperienza che è stata quella del giudice Di Bella, dell'allontanamento dei minori di famiglie che hanno questa cultura violenta, in quel caso legata anche all'esistenza di gruppi clan. Certo. Purtroppo questi fenomeni spesso si inseriscono, diciamo, e li ho più volte segnalati nelle relazioni per l'anno giudiziario, ma anche negli interventi che facciamo, si inseriscono in appartenenze a sottocontesti culturali. Sì, dottoressa Grisano, il dottor Rivella è stato due volte ospite qui a raccontare proprio questo progetto di come a Reggio Calabria ci sono le madri a volte che ormai bussano alla sua porta, per fortuna, e dicono per favore faccia crescere i nostri figli in qualche modo fuori dal contesto. Esatto, e infatti il tentativo che sempre si fa, perché in questi casi sempre si apre un procedimento civile, si fa l'analisi del contesto familiare, della tipologia e del significato dell'atto, e si interviene appunto allontanando il minore da quel contesto. Questo per la parte civile. È prevista poi una possibilità residua che vale anche per i non imputabili psichiatrici maggiorenni, cioè quella che se ci fossero patologie psichiche gravi che hanno giustificato l'atto, si può ricorrere alle misure di sicurezza. Sì. E quindi una persona, anche minorenne, può non essere imputabile, quindi non viene mai sottoposta a una sanzione penale, ma venire poi come dire forzatamente inserita in un sistema di cura e di recupero. Sì, poi ovviamente diciamo ci per i minorenni in genere si preferisce la procedura, come ho detto, civile. No, ma è chiaro che un tredicenne o un dodicenne sono, come dice poi lei, addirittura 10 anni in caso della camorra a Napoli, sono vittime, crescono in contesti evidentemente dove sono già destinati a quel tipo di ruolo. Io non l'ho detto, ma non è che non l'ho detto perché non lo dico ora. Fanno tutti parte, pare, queste persone, minorenni e maggiorenni, di una famiglia rom. No, sa perché lo dico? Perché molti dicono, ecco, non lo si dice, allora i giornali hanno chi in un certo modo, chi in un altro modo, o enfatizzano o sminuiscono. No, ma qui non cioè, voglio dire, ecco, questo è il dato di cronaca, lo devo dire per correttezza, ma non è che il caso di Willy Montero sono italiani, perfettamente italiani, per dire, quelli che sono accusati. Però questo va detto, dottoressa Angrisano, insomma, è un dato di fatto, mi pare accertato, che facciano parte di questa famiglia, pare, rom. Difficoltà proprio derivante dall'intervenire sul contesto culturale, e anche in questo il Tribunale svolge tutta una serie di attività che vanno dai rapporti con le scuole per sensibilizzare sui temi della violenza, sul tema dei comportamenti, di quella che si chiama legalità, io continuo a dire dovere di cittadinanza, orientato alla realizzazione della giustizia. E quindi ci sono tutta una serie di attività che il Tribunale fa che non si vedono, ma che vengono svolte per arrivare a un livello di prevenzione di questo tipo di situazioni. Certo. Che, le ho detto, peraltro avvengono tristemente non soltanto e più facilmente in questi contesti a cui abbiamo fatto cenno di subculture sostanzialmente, ma in zone molto degradate, no? Ogni città ha delle aree, no? Più è grande la città, più grandi sono le aree di degrado sociale per una serie di ragioni. Ma avvengono purtroppo per il diffondersi di una cultura che tende ad agiti violenti, al discontrollo degli impulsi nell'adolescenza, un po' perché è quella la fase evolutiva, un po' perché, come dire, primeggiano delle idee dai quali i minori sono più facilmente attratti, sì, di impostazione delle relazioni sociali come relazioni di prevalenza. Sì, cioè la violenza quasi fine a se stessa. Infatti l'ultima domanda che le volevo fare, e intanto la ringraziamo, è proprio questo. Pare che proprio sia nato da un banale scambio di battute, cioè quel senso della violenza, come dire, come affermazione del sono il più forte, adesso ti faccio vedere. E poi capita così. Il contesto per cui la violenza diventa un modo di impostare la relazione ed è un modo di dare significato a se stessi, no? Di riempire di senso il sé. E questo naturalmente è il portato culturale più difficile da traticare, anche quello su cui il Tribunale si muove molto sul territorio, con certo, tante iniziative che non sto qui a dirle. No, è chiaro. La ringrazio, Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Questa vicenda di cronaca che trovate sui giornali, ovviamente a pagina 20-25, perché c'è solo il Covid. In realtà non c'è solo il Covid. Non c'è solo il Covid, anche se c'è questa infodemia. Io oggi ho risposto, devo dire, faccio questa ammenda pubblica. Ho risposto in maniera molto nervosa a un ascoltatore su Facebook minacciandolo di querela. È una querela che non farò mai, lo dico se l'ascoltatore mi ascolta in questo momento, perché mi ha scritto su Facebook, ecco, quindi non so se ascolta la radio. Non mi abbasserò mai a querelare, perché poi c'è quasi il senso di dire attento che sono il conduttore, ti querelo. No, non lo farò mai. Ma di fronte al titolo che ho trovato oggi sul giornale a pagina 2, sapete che io faccio questa battaglia da giorni a dire si sta un po' esagerando nel parlare in maniera compulsiva, ossessiva e con toni tragici di una situazione complicata, lo sottolineo 10 volte, complicata, emergenziale, quale è quella che stiamo vivendo, ma come dire, se è complicata da 0 a 150, dico, no, sui giornali i titoli la rendono complicata a 90, così, perché non lo so. E quindi oggi c'era il titolo a caratteri cubitali sul giornale a pagina 2, Milano esplode. Io ho detto, porca miseria, chiudete le finestre, piombate le finestre, perché se arriva qualche scheggia esplode, tutto color di rosso con il Duomo in primo piano. Allora, ho detto, questo mi sembra il caso di una infodemia esagerata. Un ascoltatore mi ha risposto, lei smetta di minimizzare. E io, ma mi scuso, gli ho detto, se lei continua a dire che io minimizzo, la querelo per diffamazione. Cosa che non farò mai, è una puttanata quella che ho scritto distinto. Non ci sono neanche gli atti, cioè gli estremi per querelare per diffamazione, perché uno mi dice, lei minimizza. Però smettetela di dire che minimizzo, sto cercando di fare un altro tipo di discorso per dire che ci sono, il mondo va avanti, ci sono anche altre storie, altre cose di cui possiamo parlare, non c'è solo la questione del Covid, e io mi sforzo di trovare anche altre storie. Per esempio questa, saluto Riccardo Maggi, deputato di Più Europa. Riccardo, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Ma tra l'altro che pensi di questa cosa? Ho esagerato, non si querela un ascoltatore per una roba del genere. Non si querela, però è vero che qui abbiamo un tema enorme di garantire continuità terapeutica anche a tutti i malati che non sono malati di Covid, che stanno avendo delle difficoltà grosse per continuare a fare le terapie. Esatto, perché stiamo parlando di un'altra vicenda che vede Riccardo Maggi in prima linea insieme a Walter De Benedetto, che torna con noi. Buongiorno Walter e grazie di essere qui. Ciao, eccoci, buongiorno. Eccoci. Walter De Benedetto è presente, è malato di artrite reumatoide da tanti anni, 35 credo. E dallo 88, sì. Accidenti. Un bel po' di tempo. 88, poi, purtroppo, essendo una malattia rara, nell'88 ancora si basavano su ricerche degli anni 40, 50, qualcosa preso per sbaglio o per sentito dire, però alla fine era di veleno inutile, me l'ha messo tanto, però lo capisco perché in quel periodo era veramente coraggioso fare il reumatologo, perché era sicuro che non riusciva a guarire un paziente, ma potevi limitarne un po' il dolore. Certo. Adesso situazioni drammatiche, come adesso la malattia si è spenta perché si è mangiata tutta la sinovia, che sarebbe il liquido che sta tra una articolazione e un'altra, ci permette di muovere. E quindi il dolore, è tremendo, è la malattia del dolore. Si hanno detto che non si può più curare perché è andata oltre, e se si fa come vorrebbero ormai non serve più, perché si è mangiato tutto e sarebbe altra roba tossica che vado a prendere. Sì, solo che Walter De Benedetto, Walter, stai con noi perché adesso ci aiuta Riccardo a spiegare bene, Riccardo Maggi, perché Walter De Benedetto si trova in una situazione per cui adesso, pensate, è indagato ad Arezzo per coltivazione di sostanza stupefacente, perché lui, con tanto di prescrizione, come tantissime migliaia di italiani, ha diritto a quei farmaci, quelle terapie che sono anche sulla base della cannabis. E Riccardo Maggi, però cosa succede? Che le dosi, l'abbiamo spiegato tante volte, le dosi prodotte dall'unico stabilimento d'Italia spesso sono poche, non bastano questi farmaci per tutti, vengono prodotte solo a Firenze e quindi molti malati cercano in qualche modo di coltivare la propria terapia in casa, ecco, perché ne hanno bisogno oltre che averne diritto. Riccardo. Sono migliaia e migliaia i malati in Italia che hanno bisogno di curarsi con la cannabis. Purtroppo però, per una gravissima responsabilità politica che evidentemente trova anche una ragione in un atteggiamento antiscientifico, direi, noi produciamo nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze penso meno di 200 kg l'anno e già ora il fabbisogno è di circa 2 tonnellate. Ma è crescente la richiesta da parte dei pazienti e da parte dei medici che la prescrivono. Purtroppo però c'è un monopolio, diciamo, di fatto e di diritto sia nella produzione che nell'importazione, e non si riesce a garantire il fabbisogno che viene richiesto dai malati italiani e non si riesce in qualche modo a sbloccare questa situazione. Evidentemente, tra l'altro, chi come Walter ha una volontà di ferro e anche però, diciamo, una capacità, come dire, quasi da botanico e da esperto. Io so che lui è anche un esperto, perché poi parliamo di cannabis in termini generali, ma parliamo in realtà di preparati che hanno dei principi presenti in percentuali diverse, ed ogni malato deve trovare quello che va bene per lui e deve garantire una continuità con quel tipo di sostanza. Quindi anche cambiarla o a un certo punto non averla più significa andare incontro a un aggravamento delle proprie condizioni. Su tutto questo, di fronte a tutto questo, il Ministero della Salute sta mettendo in atto quello che io definisco un accanimento antiterapeutico, perché sì, c'è l'accanimento terapeutico e c'è l'accanimento antiterapeutico. Ma io dico anche l'accanimento burocratico, ma voglio dire, ma io vorrei sapere chi alla procura di Arezzo, ma con massimo rispetto, voglio dire, facendo il magistrato, dice: questo signore dobbiamo adesso incriminarlo per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso, come se fosse uno spacciatore. Questo lo devo dire, no? In maniera, ma non so, vi rendete conto? Cioè, lo fa per alleviare i dolori di una malattia. C'è un ascoltatore che ci scrive: Walter, è una malattia terribile che andrebbe spiegata, ma credo che la voce di Walter De Benedetto, che ci dice le sofferenze a cui porta, il dolore a cui porta questa malattia, valgano più di 1000 spiegazioni, o no, Walter? Sì, io tendo a essere stoico, perché comunque qualcosa i greci antichi ce l'hanno lasciato, e quindi la vita va vissuta in pieno, e verso la fine bisogna ricordarsi che c'è un inizio, una fine in tutto, e però c'è anche una qualità di vita importante. Allora, per 10 anni ho studiato, e io vengo dall'ibridazione, facevo i bonsai, ibridavo gli uccelli, quindi è una certa relazione anche un po' anche in genetica. Comunque, per esempio, molti non sanno che tra vaporizzare e avere un estratto d'olio, per fare un estratto di olio ce ne vuole uno scarafascio, diventa una cura quasi proibitiva. Allora, da quando sono venuti non lo posso fare più. C'erano genetiche vecchie e stravecchie che non ricopererò più. Ormai sono con questa compressione midollare alla prima vertebra, che sta premendo più della metà, e ormai sono tetraplegico. Pazienza. No, dice, è bellissima l'idea degli stoici, dicevano: c'è un inizio e una fine, ma c'è una qualità in mezzo. Ma vogliamo garantirla? Ma che stato è quello che non garantisce? Riccardo, che stato è quello che persegue una persona come Walter De Benedetto, che poi magari si dovrà presentare in tribunale invece di garantirgli la qualità della vita che merita un individuo? È uno stato Stato che nega, diciamo, la ragione stessa della sua esistenza, che nega anche i principi costituzionali, cioè qui parliamo di un diritto alla salute, però è uno Stato che va in tilt, come dire, no? Allora ci sono i carabinieri che sanno che lì vengono coltivate delle piante di marijuana e loro leggono appunto il burocratese della norma e vanno lì. Ora Walter fa bene a fare questa cosa, perché fa anche un atto invece di generosità nei confronti delle istituzioni, nei confronti di questo paese, cioè fa un atto che è anche un atto da leader politico e da attivista politico, al quale però deve esserci una risposta da parte delle istituzioni, che non può essere quella di mandarlo a processo. Devono cambiare le norme e ci deve essere da parte, ma io penso in termini immediati, di giorni, di ore, dovrebbe essere la risposta del ministro della salute. No, ma è chiaro, qui la cieca burocrazia che fa aprire i dossier. La situazione è che la ASL di Arezzo non è in grado di garantire quella quantità per il dolore che prova, a lui necessaria per la terapia che gli viene prescritta, e quindi Walter De Benedetto dice da un po' di tempo coltiva in casa la cannabis per poi aiutarsi. Comunque facciamo così, stiamo un attimo, state con noi, dobbiamo dare un attimo di pubblicità, ci raggiunge anche Leonardo Manera, ci raggiungerà anche un altro ospite che invece ha una storia simile, nel senso che ha una figlia di 10 anni che si cura con i farmaci a base di cannabis, e continuiamo con questo tema. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. 1. Nessuno. 100 Milan. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Allora rispondo a un ascoltatore che dice: scusa, ma questo processo alla procura di Arezzo non è giustificato. Ma nessuno sta facendo processo. Mi chiedo se nella situazione di Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide dall'88, che per far fronte alle esigenze terapeutiche coltiva la cannabis in casa, debba essere per questo perseguito dalla magistratura. Ecco, io penso di no, ma voglio dire, non c'è nessun processo, si potrà dire una cosa, no? Leonardo Manera, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere presente qui in studio oggi, come sempre sono qui presente alla mia postazione. Allora, stiamo facendo due chiacchiere con Walter De Benedetto, con Riccardo Maggi di Più Europa, e saluto Francesco Rama. Buongiorno Rama. Buongiorno. Con una figlia, Cristina di 10 anni, giusto, che ha una sindrome, sì, la sindrome di Tourette, possiamo dirlo, esatto, ed è in cura con questi farmaci. Si trovano questi farmaci a base di cannabis terapeutica? Allora, si trovano, sì, ma a singhiozzo. E soprattutto in certe zone d'Italia sento altri genitori, sento altre persone con altre antipatologie che non li trovano. Sì. L'ultima segnalazione ieri da un ospedale in Liguria. Cioè? Sì. Nel senso, in che senso segnalazione? Nel senso che hanno consegnato le ricette da un paio di mesi a questa parte e da un paio di mesi non riescono a fornire il baby oil, in olio, che è uno dei diversi tipi di cannabis, sono 5 o 6, e non riescono a fornirlo. Cioè, l'ASL non riesce a fornirlo, sì, non gli arriva dall'estero perché è importato dalla ditta Bedroca. E c'è troppa richiesta evidentemente rispetto al fabbisogno. Ma io devo dire, cioè, ricordiamo sempre che sono ricette fatte da medici, quindi diritti di pazienti che vengono violati. Cioè, pensate, se voi entraste in farmacia oggi a chiedere un antidolorifico, non lo cito qualsiasi, e vi dicono non c'è, Non c'è, non c'è. Come col vaccino più o meno, il vaccino anti-influenzale normale. E voi vi tenete il dolore, e voi vi tenete la sofferenza. Allora, nel caso di mia figlia non è dolore, ma sono i tic motori, i tic vocali, l'irruenza, perché ha una Tourette Plus, per cui al di là dei tic motori e anche nei movimenti, più che altro è iperattiva e ha un po' di deficit dell'attenzione, insomma anche un po' queste cose. Ecco. Sì, sì, diciamo tutte cose che possono essere alleviate con questi farmaci, che sono diritto di qualsiasi paziente, e invece così non è. Ecco, tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, sì. Io sono vicepresidente dell'Associazione Pazienti Cannabis sì, Medica. Sì. Tra i vari problemi, comunque, in tempo di Covid, che parlano tutti così, a marzo abbiamo fatto una PEC al Ministero, inviata alla dottoressa Pusto, al dottor Iachino, ma che comunque vedono anche altre persone, anche i politici, dove avevamo chiesto la dematerializzazione del piano terapeutico e della ricetta, perché nel caso del Veneto siamo riusciti un anno e mezzo fa a far passare la normativa nazionale, quindi la passa la Regione Veneto, io sono del Veneto. Sì. E quindi per mia figlia ho bisogno del piano terapeutico, che deve essere rinnovato almeno una volta ogni 6 mesi, e le ricette rosse, per cui io in tempo di Covid avevo l'azienda chiusa, però dovevo, nonostante tutto questo discorso, andare a rinnovare il piano terapeutico, andare dalla pediatra in ospedale, che riceve in ospedale, a farmi fare la ricetta rossa, portare una ricetta in un altro ospedale in originale, poi l'altra ricetta, siccome il Bedica, che è un altro strain, non me lo passano dall'ospedale, ma me lo passa una farmacia territoriale, quindi andare in farmacia, dopo 5-6 giorni ritornavo in farmacia, ritiravo il prodotto. Insomma, tutta una burocrazia incredibile. No, ma infatti rimango con noi, io vorrei chiedere una cosa ancora a Walter De Benedetto e Riccardo Maggi. De Benedetto, perché si è rivolto a Mattarella con questo appello al Presidente della Repubblica? Cosa chiede? Perché innanzitutto un grande abbraccio al papà e una carezza lì alla bimba, e comunque mi sono rivolto a Mattarella perché comunque voglio continuare a avere fiducia nelle istituzioni. Allora, se loro pensano che io sia un narco, facevo queste cose per vendere, quando già dalle indagini sapevo che non usciva un grammo, perché altrimenti sarei stato scoperto, era troppo raffinata e diversa a quella che va in giro, e quindi stavo attento ad aburrire, che è una cosa importantissima, mai andare per strada, perché ti vendono l'immondizia quasi che tossica, perché ci sono fuori i soldi, perché vedresti i soldi in mano alla mafia, e io non ci voglio avere proprio niente a che fare, certo. Capito? Perché siamo due pianeti differenti, però io la rabbia che mi sale, siamo in tempo, loro hanno sempre le scusanti, no? Adesso qualsiasi cosa dici, diranno siamo in tempo di coronavirus, adesso riparte l'allarme, sì. Però intanto da quanto tempo stanno dicendo, ma perché la regione si incomincia a produrre la propria erba medica per il fabbisogno delle persone? Potremmo noi rivenderla ai canadesi, che hanno la nebbia e la fanno in idroponica, che non è eccezionale, perché prendi tutti i sali chimici. Certo. Insomma, l'invito alle istituzioni a fare qualcosa. Risparmiare, guadagnarci e dare i soldi avanzati a sto benedetto coronavirus, alle ricerche, ai guanti, a quello che vi pare a voi. Però questa immobilità, io voglio continuare ad avere fiducia nello Stato. Se vi fossi stato uno spacciatore, mi sarei messo i soldi da parte e avrei avuto un avvocato. Sono stato con un avvocato di ufficio fino a quando mi hanno raccontare questa storia pensando che Walter De Benedetto possa produrre per proprio lucro, eccetera, è una cosa doppiamente vergognosa. No, è quella macchinetta, dove vado, capito? Comunque dopo mezz'ora con tutte le buche che ci stanno devo tornare che il sedere mi fa troppo male. E comunque non mi importa, ho tante persone che stanno male, che mi hanno il coraggio, certo. E attingo da loro, capito? Trasformando le loro lacrime in una spinta per andare avanti e dire ma perché questa ingiustizia? Perché sta mobilitata su certe tematiche? Sì. Riccardo Maggi, la politica cosa può fare? Perché spesso si è detto, certo, qualcuno dice i radicali dove sono? Riccardo Maggi, una vita di radicali, per dire. No, perché l'ascoltatore ho detto più Europa, magari uno dice sì. I radicali dove sono quando servono? Maggi è radicale da sempre. Ma, allora, diciamo che la fiducia che Walter ancora ripone nello Stato italiano è lo Stato se la deve in qualche modo meritare, se la deve saper meritare. Io penso che ci sia un problema immediato di responsabilità del Ministero. Evidentemente nel Ministero ancora tutto quello che è materia legata alla cannabis terapeutica viene gestito con poca responsabilità politica. Io credo, e lo voglio dire chiaramente, che ci siano dei dirigenti del Ministero che nei fatti fanno la politica e la fanno con le proprie opinioni. Serve un Ministro che si assuma una responsabilità chiara e se l'assuma trovando il modo di reperire il quantitativo di questo farmaco che serve a tutti i malati italiani. Si apra la produzione maggiore nel nostro paese, se lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, che tra il militare, che tra l'altro adesso deve produrre anche il gel disinfettante per le mani eccetera, non è in grado di farlo, si apra partnership con i privati, si faccia una maggiore importazione dall'estero, insomma si faccia quello che si deve fare e la si smetta di perseguitare dei cittadini che chiedono semplicemente di curarsi. E la si smetta anche di dire, di fare tanti bei dibattiti. Io non vorrei neanche fare di più questi dibattiti, spesso portiamo avanti queste battaglie, ma vorrei non essere in uno stato in cui non c'è bisogno più di farli questi dibattiti, perché i diritti di tutti vengono rispettati. Ci dobbiamo fermare. Io sono convinto che rimanga un pregiudizio rispetto a questo farmaco. No, ma come no, certo. Insomma, è chiaro che essendo con la, certo. La a quel base nome, di cannabis, avevo già detto un'altra volta, bisognerebbe cambiare il nome. Esatto, bisogna a base un nome di qualsiasi. A base di Giorgio, così. Benostal. Chiamiamolo Benostal. Se ne produrrebbe di più, secondo me. Un abbraccio a Walter, un abbraccio a Francesco e alla sua piccola e grazie a Riccardo Maggi. Andiamo un attimo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ieri sera sono andato a buttare l'immondizia a mezzanotte e un minuto. C'era il virus davanti al portone, non mi ha fatto uscire. Niente da dire, d'accordissimo col signor Milan. Scuola e lavoro, scuola e lavoro. Milan, tu minimizzi, fluoro, acquoso. Lei minimizza. Non minimizzo. Sei tu che minimizzi. Tra l'altro devo dirti una cosa, sono io che ti ho mandato quel messaggio sotto falso nome. Vabbè, allora ti querelo così. Sono anche molto invidioso della spugna che hai sul microfono, devo dire. È la mia. C'è scritto Radio 24 sulla sua esterno. Sulla mia c'è scritto esterno. Non è vero, sì, queste sono le discriminazioni. C'è ancora chi ci scrive cosa vuol dire il miccio dei boy. Il miccio dei boy non è cosa vuol dire, è un'arma, è il, come dire, il... Ci vorrebbe una bella passata di miccio dei boy. Una passata di miccio dei boy, come chiamarlo? È un frustino fatto sì. dal bue, no? Che non credo nemmeno sia così rigido, tra l'altro. Ma intinto nell'aceto. Secondo me ha una certa flessibilità. Ma intinto nell'aceto. Vedo che ti attira molto questa cosa, continui a citarla, hai degli istinti un po' sadici. No, mi incuriosivo. Sì, è inutile negarlo. Vedi che molta gente è incuriosita dal miccio dei boy. Sì. Lo potrei portare qui in onda. Pam, Manera, attento, pam, vai Leo. Allora è ricominciata la Champions League, io sono tifoso milanista, lo sono diventato in anni in cui il Milan non vinceva molto e addirittura era finito in Serie B, ma mi è sempre piaciuta quella maglia rossonera e quello spirito che ogni tifoso sente e riconosce nella propria squadra del cuore. Poi negli anni d'oro della presidenza Berlusconi non ci sembrava vero di poter avere una squadra che vinceva e divertiva, il massimo per ogni tifoso. Eravamo i più forti, ma non con catenaccio e contropiede, dominando e con quel gusto del gioco che ci faceva tornare un po' bambini. E allora mi sono chiesto come mai in quegli anni, gli anni d'oro del Milan, non tutti sono diventati milanisti, ma qualcuno ostinatamente è rimasto interista, laziale, romanista e così via. Soprattutto mi sono chiesto come mai qualcuno in quegli anni sia rimasto juventino. E tuttora mi chiedo come mai qualcuno, anzi molti, possano essere tifosi juventini. E poi ho capito. Ho capito che i tifosi juventini hanno qualcosa in più degli altri tifosi. I tifosi juventini hanno capito che la Juve è come la vita, soprattutto quando giochi in Europa la Juve. La Juventus è come la vita, nel senso che nella vita puoi prepararti, pianificare, fare del tuo meglio per ottenere dei risultati, ma poi ci può essere sempre qualcosa che non va. La Juventus infatti da anni si prepara per vincere la Champions, il suo vero obiettivo, spende molto, cambia allenatori, compra i migliori del mondo come Ronaldo, ma poi la Champions non arriva, si arriva agli ottavi, ai quarti, in semifinale, addirittura in finale, ma all'ultimo momento il sogno, puff, svanisce. Ecco, i tifosi juventini hanno capito che anche la vita è così. Ad esempio, tu puoi fare di tutto per fidanzarti con una ragazza, puoi cercare di essere spigliato, simpatico, interessarti a lei, portarla nel ristorante più romantico della città, cercare di essere divertente, aprirle la portiera della macchina, comprare dei mazzi di fiori dagli ambulanti, ma poi magari, proprio nel momento in cui la stai per baciare, arriva una telefonata del suo ex che la mette di cattivo umore e tutto, puff, sfuma. Lei torna col suo ex e tu resti lì coi mazzi di fiori che appassiscono sul cruscotto della macchina. La Juventus è metafora della vita e non è come l'Inter, squadra, lo dice anche l'inno un po' pazzerella, alla quale i risultati possono arrivare oppure no a causa proprio della sua indole. Non è il Milan che quando ha giocatori forti vince e quando ne ha di meno forti sta lì a vivacchiare come è successo negli ultimi anni. L'Atalanta invece si organizza bene e ha ottimi risultati, come qualcuno che pianifica e raggiunge quello che vuole. La Juventus no. È squadra ricca, forte, organizzata, ma poi c'è il caso. Tu puoi preparare tutto, ma in fondo c'è sempre il destino, quella percentuale di casualità che nel calcio, come nella vita, può fare la differenza. Anche per la vita dell'uomo è così, c'è sempre una percentuale di casualità che può rovinare tutto. La Juventus rappresenta la buccia di banana sulla strada, il problema all'ultimo chilometro, il motore che si fonde sulla strada per le vacanze nonostante il tagliando appena fatto. Per questo in molti l'amano, perché quando sembra che tutto sia spianato e si intravede il traguardo, qualcun altro fa meglio di te e tu torni a casa col sorriso sulle labbra e la morte nel cuore. Così è la Juventus, così è la vita. Anche quest'anno per la Juve probabilmente la Champions sarà dura. Adesso è iniziata a parte che insomma hai creato una polemica adesso che altro che sul virus, sul calcio. Vabbè, infatti non ti dico alcuni juventini cosa scrivono. Dimmelo, ve lo dici dopo. No, ma il più tenero è un vaffa. Giornale Radio. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. 1, nessuno, 100 Milan. No, veramente, ma di fronte alla sofferenza di quest'uomo che ha bisogno di questo tipo di farmaco per questa specifica condizione in cui si trova, cioè, ma come si fa a convocarlo per un ipotetico processo? Cioè, è veramente imbarazzante. Tutta la mia solidarietà. Ma la cosa assurda è che l'Italia è stata per decenni il primo produttore al mondo di canapa e noi oggi la importiamo. È come se l'Alaska comprasse il ghiaccio dalle Hawaii. È allucinante sta cosa. Alino, scuola, lavoro e sport per i ragazzi. Sport per i ragazzi. Dopo questo monologo mi sa che Leonardo vuol prendere il posto anche di Carlo Genta. può essere. Ma mi hai dato un'idea? Dopo Alessandra Tedesco, Carlo Genta, poi... Benvenuti alla nuova edizione di... Aspetta, sei partito con male la sigla, cioè, partito malissimo. Scusa. Ma io comincio sulla sigla, voglio anticipare i tempi, no? Vai, vai, rifai, rifai, Carmelo, rifai, Carmelo. Attenzione. Benvenuti alla nuova trasmissione sportiva Mille e uno Sport con Leonardo Manera. Tutti convocati. Ma sei titolo tutti convocati. Ma io cambio titolo Mille e uno Sport. Vabbè, mi sa che non tengo il titolo di Carlo Genta. Carlo Genta, stai sereno. Carlo Genta, stai sereno. È arrivata subito Claudia Schiattone, guarda. Ma che io... lavora tutti convocati. È il motivo, Claudio. Claudia, ti faccio venire a lavorare con me a Mille e uno Sport. Mille e uno Sport. Attenzione, c'è un'irruzione. Un'irruzione, Mille e uno Sport. Tra l'altro, io so che Claudia ha detto che ormai è un po' stanca di lavorare con Carlo Genta. C'è una rivoluzione in atto, la ribellione della redazione. Perché usate la sigla del mio programma senza il mio permesso? Perché. Benvenuti a Mille e uno Sport, la nuova trasmissione sportiva con Leonardo Manera, in redazione Claudia Schiattone. Niente, vuole prendere il posto di Carlo Genta. Questo. Vabbè, quando arriva vediamo. Hai detto più volte che vuoi cambiare, Claudia, anche tu cambiamo, dai. No, soprattutto ha fatto un'analisi lucidissima nel suo monologo poco fa sulla condizione degli Juventini e della Juve. Me la sono persa perché sto seguendo un'altra registrazione, poi me la fai sentire di nuovo, va bene? Va bene, Claudia, poi parliamo per la nuova trasmissione. Valuto se assumerti a tutti i convocati, ok? No, dobbiamo farne una nuova, comunque va bene. Capito, va bene. Signori, siamo qua, 10 minuti, se la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ormai Leonardo Manera vuole... ricordiamo però come prenderà posto dei colleghi, ricordiamolo, lo hai raccontato bene 2 giorni fa, come farai se ci saranno delle... Ho detto che a Milano c'è un... Allora, ho detto che a Milano c'è un mercatino dove una volta mi hanno detto che si trovano anche delle armi. Allora tu hai insinuato. Ma tu che 2 giorni fa nel pezzo vado a sparare a chiunque mi ostacolerà. No, bugiardo, mamma che bugiardo, non è vero. Posso anche andare a recuperare il monologo essendo munito di computer. Dicevo semplicemente che visto che c'è questa grande voglia di armarsi in tutta Italia, dicevo la prossima volta che Alessandro Milan mi accuserà di essere pigro, mi munirò di un'arma anch'io e farò giustizia. Ma mi sono riferito solo ad Alessandro Milan. Poi lui mi ha inzigato, mi ha stimolato. E tu hai detto che farai una strage. Sì, con un fucile a pompa. Ecco, bravo. Allora, 10-12 minuti. A proposito di sport, tra poco avremo con noi Yuri Checchi che torna, no? Per il tema sport. Io anch'io sono d'accordo. Scuola, lavoro. Certo che scuola, lavoro, sport. Allora tutto in giro, perché anche tutti i lavori sono lavori, anche giustamente di chi fa il barista, di chi fa spettacolo, esatto, tutti quanti. Quindi tutti in giro. No, io contesto il fatto che si sia partiti dalle scuole e molti mi dicono ma guarda che da quando gli studenti sono in giro c'è una diffusione maggiore del virus. E certo, è perché dovevano mettere più mezzi pubblici. In nome di questa angoscia dell'informazione, domani voglio almeno 5-6 titoli sui giornali: studenti assassini. Così, studenti assassini. Anche le studentesse. Studentesse e studenti assassini. Così, non vorrei... Secondo me non siamo lontani da questo titolo, sai? Non lo vedo un titolo così impossibile, improbabile. No, perché l'informazione, ieri per esempio è successa una notizia che proviene dal Brasile. È morta una persona che era, anzi meglio, lancio dell'ANSA. Me lo sono perso. Accidenti. Con le croci. Sei proprio pigro e anche disordinato e pigro. Vabbè, me lo sono perso. Ma qui una montagna di fogli, foglietti, fogliettini che parlano di tutt'altro, peraltro. Messaggi personali. No. Muore in Brasile un volontario del programma di sperimentazione del vaccino AstraZeneca. E ieri poi sui siti La Repubblica Online, nessun dettaglio, non si conosce il sesso dell'età della persona deceduta, muore un volontario del vaccino di Oxford e AstraZeneca, Il Fatto Quotidiano, sperimentazione vaccino, muore un volontario. Poi si è scoperto che era un volontario all'interno della sperimentazione che non aveva mai assunto una dose di vaccino, ma forse prendeva il placebo, secondo altri era semplicemente iscritto, però intanto... muore volontario. Fallo tu che viene meglio con la tua voce. Muore volontario dopo aver assunto il vaccino. Va bene, va bene. Attenzione. Allora. È morto un volontario. Vogliamo dare a tutti i colleghi, a tutti i colleghi, quindi di anche nuovo in forse. A me stesso, non a Manera che non è giornalista, un bel premio nei giacchetti, a tutta, tutta la categoria. Avete la faccia come il culo. Abbiamo la faccia come il culo. Te l'ho detto qual è la soluzione. Devi cominciare tu per primo a stracciare la tessera dell'ordine dei giornalisti. Sì. Che ti dà dei grandi privilegi viaggiare in prima classe anche in aereo, avere delle facilitazioni anche nei bar dove paghi meno i cocktail, fai vedere la tessera del giornalista e ti fanno un 30% sul mojito in meno. Non è vero, io la farei pagare il 30% in più. Allora, devo dare un aggiornamento, ha parlato dal Cairo l'ambasciatore italiano in Libia, l'ambasciatore Buccino, e ha parlato dei marittimi di Mazara, visto che ogni giorno, e ha detto stanno bene, vengono seguiti regolarmente da un medico, perché alcuni devono prendere delle medicine, non sono in una situazione di promiscuità con altri detenuti. Certo, non si sa molto di più, ecco, se non di queste notizie importanti, che questi 18 pescatori stanno bene, però di più, boh. Gabriele da Bologna, eccoci, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Che dice? Allora, io sono quello che gli ha mandato il WhatsApp sul processo alla procura di Arezzo. Sì. Il concetto secondo me è molto semplice. Secondo me il processo penale, è vero che di primo acchito uno dice ma questi poveretti sono messi così e sono, come si direbbe, cornuti e mazziati. In realtà bisogna anche ricordare che il processo penale può essere un grimaldello per ottenere qualcosa di utile nell'immobilità della politica. Mm. Quindi lei il dice, io l'ho interpretato come dire, sì, ho detto nessuno sta facendo il processo alla procura, per lei invece è un modo per andare davanti a un giudice e stabilire un principio poi a favore di Walter De Benedetto. Potrebbe essere, chiaro, noi non sappiamo le intenzioni della procura di Arezzo, però voglio dire... Nessuna persona sensata a questo mondo sarebbe disposta a condannare per un reato che non c'è, perché mancano i presupposti per un reato in un caso del genere. Coltivazione di sostanza stupefacente in concorso, questa è l'ipotesi di reato. Quindi... Certo, però il fruitore non è uno che si vuole divertire, è una persona che non riesce a reperire le sostanze che gli servono per curare la propria salute. Sì, io vorrei essere ottimista come lei, Gabriele. La realtà è che, non so, anche Walter De Benedetto non l'ha preso benissimo questa accusa. Poi dovrà andare, forse, se ci sarà un processo, se lo immagina, deve presentarsi con è vero che era un sistema utilizzato, per esempio, spesso da Pannella quando faceva le sue battaglie, si autodenunciava. Mi piace il suo ottimismo, Gabriele, cioè pensare che in realtà dietro questa accusa ci sia un grimaldello per affermare un principio a favore suo, di Walter De Benedetto e delle persone come staremo a vedere. Lei è una persona troppo ottimista in modo ingiustificato, ma anche nel resto della vita solo riguardo questa vicenda. Ma non mi sembra di essere uno particolarmente ottimista, però insomma ecco, speriamo, perché veramente è una situazione imbarazzante quella che vedono queste persone, speriamo che quello che possiamo fare è continuare a parlarne e torneremo a parlare, seguiremo questa vicenda, perché è davvero incredibile aver sentito anche fisicamente in radio, io penso che sia percepita da tutti e sia arrivata a tutti la sofferenza di Walter De Benedetto, i dolori che ha, quella frase in cui dice gli stoici dicevano che c'è un inizio e una fine in tutto, però in realtà per quel che riguarda la vita ci dovrebbe essere anche una dignità che deve essere garantita anche nel mentre, tra il prima e tra l'inizio e la fine. Ecco, cosa facciamo? Citiamo gli stoici, la filosofia? Ma cosa vuoi fare? Ma scherziamo? No. Ma stai scherzando? Non si può. Ma facciamo delle cose diverse da questo. No, è inutile questa città, filosofia, storia. No. No. Basta. Cosa dobbiamo Cerca fare? Di stimolare qualche polemica. Va bene. Allora, traffico e poi polemizziamo sulle chiusure dello sport. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, alle 10:20 minuti torna con noi un a proposito, amico, scusa, di sport. Vedo sì, che alcuni juventini mi insultano pesantemente, pesantemente per il monologo di prima. Ma tu hai toccato pesantemente. Il calcio. No, beh, non leggo perché sono cose troppo pesanti quelle che mi scrivono, allora, ma finché in Italia il calcio viene vissuto in questo modo, io dico ciao, sì, ciao. E tra l'altro meno male che sono intervenuto, perché nella prima formulazione del monologo tu iniziavi dicendo alla Juve manca una cosa, l'arbitro, e io te l'ho fatto togliere. Non ne ho vero. Te l'ho fatto togliere perché ho detto così ti criticano troppo. Però no, vedo che... Vabbè, è arrivato con noi un amico, no? Io sono sempre felice di fare due chiacchiere con lui, col Signore degli Anelli, con Yuri Checchi. Yuri, ciao. Buongiorno. Ciao, ciao Yuri. Ciao Renato, ciao Alessandro. Ti do solo un consiglio. Sì, mai parlare di calcio. No, no, siccome vedo che ti chiamano spesso dalla redazione, io comincerei a chiedere anche un gettone di presenza, giusto, perché altrimenti ti sfruttano. No, io chiederò solo, l'unica cosa che chiedo, questo spero sia possibile, fare con te, sentivo che parlavate di questa nuova trasmissione. Mille sport, uno sport, sì. Mille uno sport di essere alla tua spalla in questa trasmissione straordinaria. Ma stupendo, questo sì. Leonardo Manera e Yuri Checchi, ma è bellissimo. Beh, ma Carlo Genta è già Carlo pensionato. Carlo Genta, Pardo, Capuano, fuori, credo, via. Non credo. Sono bravi loro. Benvenuti alla nuova trasmissione di Radio 24, Mille uno sport con Yuri Checchi e Leonardo Manera. Tutti cioè, perché per andare in risparmio abbiamo la sigla, ricicliamo la sigla di tutti i convocati, sì. No, abbiamo convocato Yuri Checchi per l'appunto perché c'è questo tema dello sport. Allora, cerchiamo di fare un ragionamento senza cadere, cari ascoltatori, nelle solite steccati ideologici, chi dirà ma lo sport è superfluo, ma fatevi gli addominali in casa e non rompete, e questa è una cosa che Yuri Checchi ha sempre detto, si può fare insomma la ginnastica in casa, però come la mettiamo, Yuri? Mettiamo a riposo milioni di ragazzi, ragazzini, ragazzine? Chiudiamo le palestre? No, mi auguro davvero che questo non accada, perché sarebbe un grave errore per diversi motivi. Il primo, perché mi permetto così di fare questa valutazione, ma non ci sono delle evidenze scientifiche o dei report, dei protocolli che dicono che delle palestre, le palestre sono questo focolaio particolare, quindi vanno chiuse. Credo appunto sarebbe un errore. Io lavoro spesso nella mia attività, fra altre cose, con le palestre, le ho visitate, le visito, e vi posso assicurare che tutte quelle che ho visto hanno fatto intanto investimenti importanti per adeguarsi alle normative giuste vigenti, e poi tutte rispettano quelle che sono le normative nel limite del possibile e anche dell'impossibile. E quindi se poi c'è qualche palestra che non rispetta queste regole, giusti controlli che vengono effettuati, che si chiuda quella palestra, ma non tutto il settore, perché il problema, a parte i ragazzi che non farebbero più attività, e questo è molto critico, ma sono anche l'aspetto economico di un settore molto importante che già ha avuto è stato falcidiato dopo il primo lockdown. Più del 20% delle palestre non hanno riaperto. A questo punto le facciamo vedere tutto, se si rifermano ancora, sarebbe una cosa secondo me sbagliata, anche perché faccio un'ultima considerazione e poi mi taccio, ma se si chiudono, allora se si pensa che le palestre siano davvero un focolaio critico, mm-hmm, e non chiuse, beh, allora bisogna chiudere tutte, eh? Mm-hmm. Anche quelle dove ci si prepara per le Olimpiadi, per le gare internazionali, dove si fa questo, cioè, quindi però, anche gli sport agonistici, anche sì, i professionisti. L'obiezione che viene fatta è che gli sportivi professionisti sono sottoposti a molti più controlli, tamponi, allora, continui. Ti dico questo, certo, Federica Pellegrini, visto per il caso, Valentino Rossi, sì. Ma andate in una palestra di ginnastica o di scherma o una piscina di pallanuoto e le decine e decine di bambini che entrano a fare attività, perché sono tesserati per una federazione e giustamente devono continuare a farla e non devono chiudere. E questi non li fanno i vaccini per entrare, ma anche tutti i bambini, e si allenano anche con gli atleti professionisti. Cioè, entrate in una palestra di uno sport che conosco come la ginnastica, funziona così. È ancora più difficile, credetemi, cercare di rispettare le normative in un'attività, diciamo, più strutturata come questa rispetto a una palestra commerciale dove ci sono spazi, dove ci sono soprattutto adulti che fanno attività e riescono a stare un pochino più attenti. E quindi ecco, è da fare, e ripeto, io questa è una considerazione, ci mancherebbe altro, ma se chiudono anche le palestre federali, allora veramente abbiamo siamo davvero a una cosa critica. Mi pare che in questo provvedimento non se ne parli, meno male. Però se il problema sulle palestre, allora non è che ci può essere lo sportivo di serie A o lo sportivo di serie B, cioè tutti hanno il diritto a fare sport nella sicurezza, ma tutti hanno il diritto di fare sport. Ma sai, poi è andato questa settimana di tempo, già secondo alcuni la linea rigorista, cioè il ministro della salute di Franceschini, era di chiudere piscine e palestre settimana scorsa, il ministro dello sport pare abbia tenuto duro, questo racconto di retroscena, sì. E poi adesso però la settimana di tempo è scaduta, sì, e vedremo il prossimo. Chi andrà a controllare? Secondo me non ci saranno controlli. È impossibile che ci siano controlli a tappeto, è impossibile farli in tutte le palestre. E poi se uno, voglio dire, se uno rispetta il protocollo nel momento in cui viene il controllo, poi lo deve rispettare in realtà tutti i giorni, ecco, questo è importante. Ma, guardate, ma qui è vero, i controlli vanno fatti, e sono stati fatti, è sicuro, sono stati fatti, però poi si torna sempre, secondo me, un discorso un po' principe e principale di tutta la situazione, che è critica e nessuno sta sottovalutando, ci mancherebbe. Però dipende molto anche dai comportamenti nostri, individuali, dal fatto di essere davvero capaci a stare attenti a quello che bisogna fare per cercare di eliminare, di evitare al massimo il contagio. Io stamattina, ancora perché la scuola credo che sia un argomento importante, ho accompagnato i miei ragazzi in macchina, non più, non li faccio più andare con l'autobus oltre il servizio pubblico, perché... E ho visto ragazzi fuori dalla scuola che parlano tutti insieme, raggruppati con la mascherina giù, entrano nel cancello sulla mascherina. E negli autobus non c'è verso farli andare, perché davvero è critica la situazione. Quindi ecco. No, questa cosa che dice è verissima, l'ho notata anch'io, la scuola dei miei figli, cioè i ragazzi non hanno questa consapevolezza, pensano che sia una malattia che colpisce soprattutto gli anziani, e nella mortalità è anche purtroppo così, cioè sono evidenze scientifiche, soprattutto percentuale, e quindi non hanno questa percezione. Mi chiedo se la soluzione sia, ma lasciamole a casa da scuola, ma tanto quando è finita la didattica online all'una, alle due, ma dove pensate che vadano? Nei giardini, e stanno sempre con la maschera giù a parlare a due metri, cioè non è che chiudere le scuole risolve il problema, anzi le scuole devono stare aperte, restando, ci mancherebbe, sempre più nell'attenzione, cercando di responsabilizzare, far capire il più possibile ai ragazzi qual è il rischio, perché tu parlavi dell'età, è vero, ma io ho degli amici, dei conoscenti della mia età che sono in terapia intensiva, quindi in buono stato, non con patologie particolari, quindi è davvero importante far capire questo, ma le scuole devono rimanere aperte, ma e le palestre devono rimanere aperte. Io di questo sono assolutamente, spero davvero che non ci sia questa decisione, il fatto anche che ci sia questa, e poi c'è anche un po' poca conoscenza, lo dico con totale rispetto per chi pensa dovrebbero andare magari in qualche palestra a vedere quante persone si sono operate, sono impegnate affinché si possa fare attività in totale sicurezza. Io nella palestra dove vado io vedo che le norme sono più che rispettate, io vado lì a nuotare in piscina, tengo la mascherina fino allo spogliatoio, mi è capitato dallo spogliatoio alla piscina di non avere la mascherina, è venuto il bagnino da me e mi ha detto guardi che deve tenere la mascherina anche dallo spogliatoio alla piscina, però mi ha detto poi quando è in acqua la può togliere. Questo mi sembra un buon consiglio. Però mette la maschera col boccaglio, certo. Lui in piscina, lo sai che nuota con la maschera col boccaglio, è lui. Con le pinne e i braccioli. La ciambella, con la ciambella. Yuri Checchi, per concludere, la questione invece di molti che dicono ma in fondo lo sport non è così importante, anche nel benessere, anche psichico, oltre che fisico, dei ragazzi e ragazze. Vuoi spiegare invece quanto è fondamentale? Ma è talmente fondamentale che noi ancora non abbiamo capito quanto bisogna farlo dalle scuole materne. E non solo noi nella scuola facciamo poco e male lo sport, se ne parla sempre, ogni volta che c'è una nuova legislazione, perché fa bene, diranno faremo più sport, più attività motoria nelle scuole, poi dopo non cambia niente, perché credo che dovremmo fare davvero uno scatto avanti anche culturale per capire quanto invece è importante, non solo sotto l'aspetto fisico che lo è, ma anche sotto l'aspetto psicologico, mentale. Mens sana in corpore sano, sì, ma corpore sano in mens sana ancora meglio, secondo me. Cioè, si può partire anche da questa concezione che se sto bene col mio corpo poi va tutto meglio. Io credo che siamo un po' indietro, i paesi anglosassoni l'hanno capito da tempo e i risultati si vedono non solo nelle vittorie a livello internazionale, ma anche sotto altri parametri, no? Che ci fanno appunto capire quanto è importante. Io davvero spero che ci sia prima o poi, insomma, c'è un Ministero dello Sport, si parla, in qualche modo c'è una riforma sportiva che potrebbe, dovrebbe dare anche un po' più opportunità, non solo a campioni olimpici, che meno male che ci sono e continuano ad esserci, ma anche alle persone, diciamo, perdonatemi, normali, per far capire quanto è importante lo sport. Sì. Io davvero c'è bisogno più di un'istituzione che ci creda veramente, non a parole ma con i fatti. Mi auguro che possa accadere. Speriamo. Noi nel ringraziare Yuri Chechi, giustamente l'ascoltatore dice il modo migliore per far tenere le mascherine ai ragazzi e tenerli il più possibile a scuola, perché lì sono obbligati. Sì, è anche vero, ieri parlavo con mio figlio, dice sta 5 ore immobile al banco di mattina, di pomeriggio non posso più andare immobile a fargli gli allenamenti, praticamente sono fermo sempre. Sì, è così, è terribile. Yuri, grazie, un grande abbraccio, lo attendiamo qui per la firma del contratto per la nuova trasmissione. Mille e uno sport. Stavolta Manera non ha neanche detto che Chechi è più simpatico, ma lui, Leonardo, ha un fisico più prestante. No, vi giuro, sta facendo i muscoli. Leonardo Manera sta facendo due arance i bicipiti. Qui, ho due arance di marmo qui al posto dei bicipiti. Mica la mollezza di Yuri Chechi. Stavolta non gliel'hai detto. Va bene, la borsa! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno a tutti, sono Marco dalla provincia di Torino, tifoso Granata. Manera, sei un grande. Radio 24 diventerà come una delle primissime radio libere degli anni 70, dove c'era un disc jockey che faceva tutto, metteva dischi, rispondeva al telefono, leggeva il telegiornale, passava le pubblicità, tutto, e poi puliva anche il pavimento. Questo è il sogno di Manera. Ma voi non sapete che a Salò, cittadina dove ho abitato i miei primi 19 anni di vita, c'era una piccola radio libera nella quale io sognavo di lavorare. Non ricordo neanche più come si chiamava, ricordo però che l'indirizzo era in via Disciplina numero 6. E quindi sei andato via. Vicino alla Fossa di Salò, zona chiamata Fossa. Quindi se qualcuno per caso ha l'ascolto di Salò e si ricorda come si chiamava quella piccola radio libera in via Disciplina numero 6. Radio Salò. No. Radio Repubblica. C'era un DJ che parlava con la voce tutta impostata proprio da DJ, un po' come il clown Neronello, l'amico dei bambini. Ma noi abbiamo qua tra i vari sogni di Manera anche quello di realizzare una trasmissione da Leo Summer con DJ Lucchetto. Quindi voglio dire, ha tanti sogni, il programma di sport, il programma di libri, tanti sogni e poche realtà, diciamo. E poi è sempre qui a fare il paliaccio. Uno nessuno 100.000. Certo, metti d'accordo tutti i tifosi Granata e ti metti contro i milioni di tifosi del Torino mi è sempre stata una squadra molto simpatica, devo dire. E vabbè. Risulta simpatico il Torino come squadra, non trovi? Certo. Però le squadre, a parte il Milan, allora siccome vieni insultato te, devi facciamo outing, anche me. Faccio outing. Sì. A parte il Milan, che è la mia squadra del cuore, le altre squadre che mi sono simpatiche sono Torino. Sampdoria, sì. E anche Roma, guarda. Queste tre principalmente. Io la Roma, anche lo dico. Spero sempre, se non vince il Milan, che vinca la Roma. Allora, adesso vogliamo salutare e tornare sulla questione che abbiamo affrontato varie volte degli orsi, soprattutto in Trentino. Voglio salutare Stefania Sbarra. Buongiorno Stefania. Sì, buongiorno a tutti. Che insieme a Barbara, non so se siete amiche o se siete, sì, fate sì. parte, sì, siete amiche. Dal 21 settembre, io ho letto la notizia così, dal 21 settembre siete in sciopero della fame. Sì. Tanto accidenti, voglio dire, cioè proprio non mangiate niente, bevete ovviamente, ma non certamente mangiate, non mangiate idratiamo nulla. Il corpo soltanto tramite acqua, tisane, caffè, così almeno ci aiuta un po' a rimanere sveglie, perché è veramente molto molto pesante. Ecco, spieghiamolo, questo sciopero della fame è per... Sì, però vorrei anche dire una cosa, che dal 17 ottobre si è aggiunta a noi un'altra persona, e si chiama Daniela Musocco. Quindi siete in tre. In questo momento siamo in tre. Siete in tre a fare lo sciopero della fame per fare questa lotta civile, diciamo, di liberazione degli orsi. Voi ritenete che gli orsi vengano maltrattati, come peraltro altre persone, come in alcune sentenze si sta discutendo di questo, ma arrivare addirittura allo sciopero della fame perché? Ma è perché riteniamo che noi abbiamo scelto questo proprio lo sciopero della fame, perché è una forte azione di lotta dalla connotazione politica, perché comunque è la politica, noi chiediamo, anzi non, noi non chiediamo nulla alla politica, noi rivendichiamo la restituzione da parte della provincia autonoma di Trento e della politica italiana, perché è vero che la provincia di Trento è una provincia autonoma, però tutte le diciamo il discorso legato al progetto Life Ursus è passato comunque anche tramite l'approvazione della politica nazionale. Sì. Quindi noi rivendichiamo la restituzione di quei diritti estorti alla popolazione di orsi che popolano la provincia autonoma di Trento. E questo posso capire, c'è una battaglia per questo, e mi interrogavo battaglia... sul perché arrivare allo sciopero della fame, cioè che è un gesto perché molto per noi, estremo. Perché per noi comunque non è uno sciopero della fame per gli animali, cioè nel senso alcuni possono anche pensare, no? E penso che sia un po' purtroppo il pensiero antropocentrico e specista della maggior parte delle persone, ma figuriamoci, queste qui si mettono in sciopero della fame per degli animali in generale, perché la nostra cultura specista li vede solo come animali. No, in realtà è uno sciopero della fame mirato a restituire la libertà a degli individui viventi ai quali spetta comunque di diritto, punto, indipendentemente che siano orsi o che siano uomini o che siano donne. Qui individui viventi, punto, perché sfido chiunque a dimostrare il contrario. Qui in gioco la posta in gioco, che è molto alta, è proprio il concetto intrinseco della libertà e della sua violazione per arroganza politica. Qualcuno potrà diciamo contrastare o dire non so, voi non avreste fatto lo sciopero della fame per delle persone incarcerate ingiustamente nel mondo, visto che appunto se sono individui a cui viene privata la libertà, ma non è che voglio, come dire, contestare questa scelta. È l'obiezione che in molti le farebbero, diciamo. Ma certamente, infatti, ma la raccolgo tranquillamente dicendo che ognuno faccia la sua battaglia, queste persone possono scendere in sciopero della fame, a parte che non è detto queste persone. Questa è una risposta intelligente, esatto, poi loro non mi conoscono, queste persone non mi conoscono, non sanno, non possono sapere le battaglie che personalmente io ho affrontato nella mia vita anche per gli umani. Su questo, Stefania, è la risposta più intelligente, perché quelli che dicono ma fai la battaglia per questo e non per questo, una volta mi rispose anche un mio amico che fa alcune battaglie, nel caso lui è vegano, dice non si possono sposare tutte le battaglie del mondo, uno ne porta avanti una o due o tre, quelle in cui crede, cioè non è che si può dire allora se fai lo sciopero della fame per quello, perché non lo fai per quell'altro. Uno individua una cosa in cui crede e fa lo sciopero della fame su quella, e punto. Gli altri facciano quello che credono. Anche perché comunque la violazione da parte dell'arroganza politica della libertà, che è un bene insopprimibile di ciascun individuo vivente, è comunque una violazione che può essere sistematica, sì, quindi sì, applicabile, e lo vediamo tranquillamente, può essere applicata anche agli umani. Quindi noi, ripeto, stiamo conducendo una battaglia per la libertà in generale, per il rispetto della libertà in generale. Sì. Poi questa volta passa tramite gli orsi, perché gli animali comunque sono sempre purtroppo meno degnati di attenzione rispetto agli umani, quindi qualcuno dovrà pure fare questa, diciamo, battaglia. Ecco, fare ma qualcosa come state? Per loro. Perché sa, insomma, allora, 17... non particolarmente bene, però non particolarmente bene. Tengo a precisare una cosa, considerato che questa è un'azione politica, la politica italiana, quella con la P molto piccola, è perfettamente al corrente e tace. Sì, e tace. E tace, però a noi va bene che taccia. Più a lungo tace, meglio è per noi. Perfetto. Però insomma, vediamo intanto, ci riaggiorniamo, Stefania Sbarra, e vediamo come va la situazione. Perché la settimana scorsa due persone, visto, poi tre in sciopero della fame. Ho visto una manifestazione che non avevo mai visto in vita mia a favore dei pesci. Non avevo visto persone che manifestavano con dei cartelli, e mi ha colpito questa cosa, è raro, no? Perché tu l'hai mai visto? I pesci di solito silenziosi, soffrono in silenzio. Non ho mai visto persone prima manifestare a favore dei pesci. Per la prima volta in vita mia le ho viste, mi ha anche colpito, anche positivamente, devo dire. Andiamo anche al traffico, perché scusa, spesso chi dice c'è ben altro di cui occuparsi, poi utilizzando questa frase non si occupa di nulla. Esatto. Cioè, il benaltrismo, almeno uno fa una battaglia, non è che io la condivida, la debba sposare, però insomma è la battaglia che hanno individuato queste tre donne. Traffico 1, nessuno, 100 Milan. In diretta dagli studi della Radio della Repubblica di Salò, ecco a voi il programma 1001 Sport. Ascoltatelo, a noi! Abbiamo già il titolo, abbiamo già la voce, abbiamo già gli studi a Salò. Abbiamo Yuri Chechi, co-conduttore. Cosa vuoi di più? Qui va fatto immediatamente un contratto dalla signora Scaglioni a Leonardo Manera e Yuri Chechi, prepensionando Carlo Genta. Ma sì, dai, basta. Qual è lo sport di cui si strumpa? Voglio sapere tutto di si strumpa. Devi ricordare cos'è, altrimenti la gente pensa male. Questa lotta sarda, cioè l'angolo degli sport, come dire, meno conosciuti. Non è male, bello. Già il titolo lo dice lunga: 1001 sport. Diamo spazio anche agli sport meno riconosciuti, di cui meno si tratta. Vabbè, però adesso diamo spazio anche, purtroppo, a un ospite che ogni tanto viene a trovarci, nonostante. Dissi anche tu, che orrendo. Molto bene, abbiamo cominciato colino. Questo è, va bene, apprezzo. Sì, apprezzo Carmelo Lauricella, che ha già preso la tessera del Pisi. Bravo, bene, complimenti. Pisi. Finalmente le cose cominciano ad andare per il verso di Geppo Carosio. Esatto. Sì. Detto anche Geppo Carosio, la voce della verità, la voce della sincerità, la voce che dice agli italiani come stanno veramente le cose, sì, non come i giornaloni vogliono darci da bere. Sì. Ho fondato il Pisi, partito super sovranista italiano, PSSI si pronuncia. Annuncia Pisi, Lino può piacere, non piacere, ma va apprezzato. Come dice il proverbio latino, de gustibus non sputandum est. Sopra alle degustazioni non si sputa, sulle degustazioni non si sputa. Lei mi deve far parlare. Sì. Lei abbandona lo studio, ecco. Se non mi fa parlare, buona se non idea. Mi dà spazio. Lei mi deve far parlare, perché io sono il suo cavallo di Troia. Dentro attenzione. Attenzione! Pissi anche tu, pissi anche tu, ora pissi anche tu. Spero non ci sia un detto latino su questo. No, no, no. Io sono un cavallo di Troia nel suo studio, che ha servito al potere il suo studio. Ecco. Lei mi ha fatto entrare come fece i Garibaldini per conquistare Troia, adesso lei mi fa parlare, altrimenti sì, sì. Abbandono lo studio. Allora, io sono fuoriuscito dalla Lega di Matteo Salvini. E quando sono uscito? Quando mi hanno espulso. E perché mi hanno espulso? Perché gli altri sono troppo moderati, io invece sono per le misure più drastiche. Allora, per salvaguardare gli italiani, sì. Gli italiani veri nati in Italia da genitori italiani con nonni italiani che ricordano almeno due o tre trasmissioni Mike Buongiorno. Rischia tutto, lascia la doppia e Super Flash. Allora, se hai questi requisiti puoi stare in Italia, altrimenti torni in Amazzonia. Torni in Amazzonia dove vuoi tu, in Amazzonia dove vai? Allora, perché non in Svezia, in Finlandia, in Belgio, in Amazzonia? Lei è un po' razzista. Torni in Amazzonia, c'ha un retrogusto razzista. Allora, se non conosci le canzoni, le trasmissioni, vai, buongiorno, torni in Amazzonia. In Amazzonia. Ah, amici ascoltatori, allegria. Allora, non ho niente contro gli extracomunitari, possono anche venire i negri qui da noi, però devono essere disposti a fare i lavori che gli italiani giustamente non vogliono più fare, devono anche essere disposti a guadagnare un po' meno degli italiani. Ma perché? Allora, mi dica se ho torto o no. Allora, questi qui, i negri, in Africa guadagnano magari $1 al giorno. Cosa c'è? E qui vogliono guadagnare 1500 euro al mese, ma è giusto? Allora facciamo per gradi. Se vuoi l'ascensore sociale, per gradi, prima 2 euro al mese, 2 euro al giorno, poi 3 euro al giorno, poi 4 euro al giorno. È razzista. Con lo scatto di... ignorante, lei è ignorante. No, questo è l'ascensore sociale corretto. Devi partire dal piano terra e non già dall'attico extracomunitario. Per non parlare dei cinesi. Allora, ma i cinesi sono anche simpatici, ma c'è sotto qualcosa di scorretto. Sì. Ogni volta che vado in un bar di cinesi c'è qualche foglio con scritto qui via gratta e vinci 500.000 euro vinti, 1 milione di euro. Sarà vero. E allora vorrei sapere perché tutti i biglietti vincenti li hanno i bar dei cinesi. C'è sotto qualcosa. I baristi italiani sono vittime della congiura internazionale. E poi, non so se avete visto i bar dei cinesi, non c'è mai un bel vassoio con della pasticceria, qualche stuzzichino fatto bene. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non potete cacciare fuori. Allora, nei bar dei cinesi c'è solo il caffè di base, che non è neanche quello di marca, è la sottomarca. I cinesi invece il caffè Lavazza hanno il caffè La Tazza, invece del Lilli hanno il caffè Billy, Billy Caffè. Invece il caffè, caffè Zanetti c'è il caffè Centofanti, e questa la dice tutta. Questa è la migliore, è la migliore. È allora, questi cinesi che non riescono a dirla R, amico cinese, non è difficile dirla R. Guarda com'è facile cinese. Invece questi sono qui da 50 anni e ancora riescono a dirla R. Se devono dire, che ne so, non riescono a dire parole semplici con la R. Senta, vada a ramazzare fuori dallo studio. Allora, se devono dire aranciata amara, non riescono a dire aranciata amara. Sono qua da 50 anni. Parli lei cinese, parli in mandarino. Per finire i nordafricani, mangiatori di kebab. Sì, allora, il coronavirus è una brutta malattia. Ma ha un vantaggio il coronavirus. Sai che vantaggio ha il coronavirus? Basta, che se abiti vicino a un kebab. Spegni il microfono. Se abiti vicino. Basta, non la sentono. Come Bersani da Floris, non la sentono. Se abiti vicino a un kebab bar, ti viene il Covid, per un po' non senti più l'odore. Allora, questo è l'unico vantaggio. Via l'olfatto, via l'olfatto. No, allora. Senta, Garosio, via lei. Esca, guardi, quella è la porta, accompagnate, per favore. Non si ripresenti più, perché lei è veramente fastidioso. Ci dobbiamo salutare, non fatelo entrare. Per più, non parlare degli europei, gli inglesi che fanno i fenomeni. Nessuno, 100.000. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.